Questa di Barisoni è la storia vera. Ritardò altri 3 minuti quella sera e Cruciani senza censura a muso duro lo mandò serenamente a fare in culo. E noi tutti con la classe di Locascio tedimo Barisoni a rotto il cazzo. Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è no. Pronto? Toscani? Sì. Sta attento bello, mi sono Mona Veneta e sono qua con Bicere de Terra Crua de Breganze. Coglion, che se lo casara Benetton te parisci le fotografie, i funerali e i matrimoni. Imbecille che non ci sia altro. Passa qua per Vicenza che vengo a trovarti, stupido de una merda. Dite a quel demente di Lores che quando noi in Sicilia avevamo Archimede, loro non avevano nemmeno quei trogloditi con l'elmo e le corna, ecco, si sappia. Parenzo, Cruciani, speriamo che ve la chiudano più presto sta trasmissione. Siete proprio il fecciume dell'umanità, stasera proprio state di non lo so come definirlo. Fate schifo proprio, voi e la trasmissione vostra, andatevene a fanculo. Speriamo che quelli lì delle alte sfere magari vi sentano e ve l'aiutano al più presto possibile su schifo di trasmissione. A fanculo tutti e due, froci. Ma io non ho capito perché froci poi, David. Cioè, mi spieghi ecco. Te la parola froci, perché froci? No, viene usata in modo... Sì, infatti, no, viene usata in modo denigratorio e quindi prenderemo, in base alla legge Mancino numero 205, 25 no, giugno basta, 1993... Basta. Provvederemo a... Volevo raccontarti però rapidissimamente questo episodio. Ieri mi trovavo in un quartiere un po' popolare di New York, verso Harlem, in una zona un po'. E sono entrato in questo grande store, ma te la farò brevissima, però ti divertirà molto. In questo grande store in cui vendevano vestiti per Halloween, festa qui molto seguita, perché c'era la Halloween Parade domani, il 31, nei prossimi giorni a New York. Entro e faccio per comprare un vestito da rabbino per Halloween, in cui vendono i vestiti da rabbino. Inavvertitamente urto un piccolo bambino di colore, c'è la madre grassissima, inavvertitamente lo urto, ma cioè non volevo, davvero te lo giuro, non volevo fargli male, ma pochissimo. Quella allora... si gira e mi urla: bastardo, sei fortunato che non c'è il suo grosso grasso negro padre qui. Dico: ma scusi, ma che ho fatto, signora? Mi sono scappato via. Sei fortunato che qui non c'è il suo grosso grasso negro padre. Che valore qui ha questo racconto che hai fatto? Nessuno. Valore, zero. Solo cioè per zero dirti totale. Che in questa città, solo per dirti, no, volevo condividere con zero, te questa cosa. Zero totale. Zero. Valore di questo racconto zero totale. No, ma è un racconto di strada, il suo grosso grasso negro padre mi ha detto. Vabbè. Ragazzi, sugli schermi italiani è tornata la signora Rosina con tanto di forcone. Mentre la Catalogna dichiara l'indipendenza, Rosina riprende il forcone in mano. con le telecamere di Dalla Vostra Parte, Rete 4, prima serata, Rosina con il forcone in mano. Dice che ha paura di un immigrato che ancora non è stato catturato, è scappato in Spagna, di quelli che l'hanno aggredita. Vi ricordate la signora Rosina con cui abbiamo battibeccato, con cui abbiamo anche litigato in onda? Perché sì, non è che una vecchia va sempre appoggiata, ogni tanto ci si può anche litigare e poi si può fare pace con le vecchie. Due sono in prigione e martedì mattina abbiamo il processo. Il terzo sembra che sia in Spagna. È lì che abbiamo paura, perché adesso che c'è sotto il processo, oppure che mi venga davvero a sgozzare. Ancora, ancora la Rosina con tanto di forcone in mano. Io le dico una cosa, direttore. Dica. Il nostro è stato proprio un tentato omicidio. Io voglio che le cose vadano finite in fretta e che siano condannati come si deve. E vogliamo essere risarciti da tutti i danni che ci hanno fatto. La signora Rosina. Io so che Parenzo odia la signora Rosina. Sì, tu non la sopporti. Non sopporti che vada in televisione col forcone in mano. Tu non sopporti l'idea che vada in televisione. Guarda che te la chiamo stasera. Chiamala. Ti dico cosa. Tu non sopporti l'idea che abbia un forcone in mano in televisione. Ecco, bravo. Ecco, no, esatto, dirla tu. No, no, lei non è che odio, non posso odiare la signora poverina che ha subito una cosa terribile. Hai detto molto bene, non sopporto la messa in scena. Questo hai detto molto bene. La messa in scena di presentarsi in te. Questo purtroppo me lo consentirai. Uno sì, può aver subito, carità, me lo consentirai. Ma non odio, la parola odio non la posso utilizzare, non, assolutamente. Mi innervosisce un tantinello. Anziché un tantinello, no, anziché no. Con tantinello l'esibizione di tal forcone in televisione, quello un po'. E anche lei dice direttore, e spiega al direttore, signor Belpietro, che qui in America chiamiamo A Beautiful Stone, Maurizio Belpietro, chiamate cosa, A Beautiful Stone. Sì, beh, non rimango qui a vita, io voglio più tornare. Allora, sentiamo la città del capitale. Carabue contro Poletti sulla Rosina. Carabue. Ma che roba è Carabue? Le consiglio, signora, di evitare di stare con quel forcone, perché quel forcone è per lei eccessivamente pericoloso, paradossalmente. Uno, perché comprenderà che alla sua età in mano un forcone del genere è del tutto inutile. Ma e scusa, gli stai dando della rincoglionita, scusa. Non cominciate, vi voglio far vedere la storia di Ascoli, di una ragazzina. Guardiamo questo filmato, poi torniamo. Ancora, perché si accende la discussione. È giusto o no che la signora Rosina abbia un forcone in mano, caro Parenzo? Carabue contro Poletti. Accendere chi è stato? Sir Poletti, che non è il ministro, ricordiamo, non è il ministro. No, è l'inviato molto, molto leghista, diciamo la verità. Molto, molto, diciamo, no, sovranista, nazionalista. Di dalla vostra Poletti, parte. È Poletti. Allora stai dandogli della rincoglionita, vero? È Poletti. Qualcuno che qui è ben integrato, conosce le regole, veste magari in maniera simile elegante come Carabue, si permette di dire che io sono razzista. Vabbè, e invece il vero razzista è lui, perché critica una signora che si difende da sola, perché l'unica forma di giustizia per quella signora che ha il forcone è infilarlo in pancia. Diritto di replica a Carabue, perché è stato chiamato in ballo. Signor Poletti, infilarlo in pancia. Perché deve fare questo? Stupendo. Ancora, voglio sentire ancora questo duello. Diciamo, di altissimo livello. Carabue contro Poletti. Non so se ve lo ricordate, gente, popolo che state ascoltando. È quel signore con quella palandrana lunga. Nero, che sia un professore, dicono sia un professore. Come pare? Non so dove. Perché dici così, scusa? Ma in Italia sono tutti perché professori. In Italia sono tutti ma professori. Sono tutti ma professori. Dici, ma quello lo è davvero? Per me non è professore quello. Solo perché è nero. Ma no, perché con la palandrana va in televisione dalla vostra parte? Ma uno non va in televisione se fa il professore dalla vostra parte. Ma non ho capito. Uno può andare col forcone e quello non può andare con la palandrana. Ma che personaggio sei tu? Ma non ho capito. Vai. Nicoletti, che non sa neanche cosa significa la parola razzista, perché dire che io sono razzista solo perché ho consigliato a una persona di 80 anni di non girare, sì, con è razzista un forcone, nei confronti degli italiani, non ha il la paese percezione nostro. Tu non hai la questo percezione paese della che realtà. Ti fa parlare in televisione. Tu non hai la percezione, questo paese che ti fa parlare in televisione e buttare fuori la tu tanta aria che hai la dentro. L'ha fatto della grande realtà. Gente come tu quella signora lì. La percezione devi, della realtà. Fuori, la non è che ripetendo sempre le stesse cose. Vabbè, l'abbiamo capito. Allora ragazzi, a proposito del Mona di Toscani a quelli che hanno votato al referendum del Veneto, due consiglieri regionali del Veneto hanno denunciato Toscani alla procura, non so per quale reato. Effettivamente per tanti anni noi abbiamo sopportato, non siamo stati veramente presi in giro da chi prelevava le nostre risorse al cassetto pieno e ci ha lasciato il cassetto vuoto a casa nostra, e siamo sempre stati silenti, non siamo mai lamentati, quindi siamo stati veramente dei Mona. Però c'è una cosa che vi voglio dire, questi del PD si scannano tra di loro, caro David, anche per le cazzate. Cioè, ma ti pare normale che il ministro dell'istruzione dica i genitori devono andare a prendere i figli alle scuole medie fuori da scuola? Cioè che devono essere lì fuori da scuola e perché così dice la legge. Io per esempio non ci vado mai, spesso mia figlia torna a casa da sola, è in seconda media, torna a casa da sola. Quando posso ci vado, quando posso ci vado. Ma quando vuoi mai? Cioè, allora, ma la cosa fondamentale è vero, bugia. No, ma la cosa fondamentale è un'altra. Sì, ma non può essere un obbligo, no? Cioè la cosa più incredibile è obbligo. Però allora, è giusto che le istituzioni dibattano anche del ruolo del padre, di cosa deve essere la paternità. Lascia perdere queste puttanate. Questi del PD si devono mettere d'accordo tra di loro. Il ministro Fedeli dice che è obbligo dei genitori andare. Renzi interviene e dice: no, non può essere un obbligo. Mettetevi d'accordo anche su queste cose. Non se ne occupi, va bene così, non c'è bisogno. È un obbligo di legge andare a prendere i bambini alle scuole. Dammi retta, pensino alle gaffe che hanno fatto col governatore della Banca d'Italia. Il Partito Democratico pensi a quella gaffe. No, adesso anziché dibattere di padri, di figli, di cose devono fare. Non voglio sentire parlare di Banca d'Italia. Quella... Non voglio sentire parlare, bene, fermo. Scusa. Sì, è giusto. Radio economica, giusto. Ciao Davide, vieni qua a farmacia. La Zanzara. Buonasera a voi da Diego Fusaro. Se desiderate interloquire con siffatto conduttore lasciandovi in tal guisa scivolare lungo il piano inclinato del turpiloquio verso un abisso apolide nichilistico, potete comporre sulla tastiera dematerializzata del vostro telefono intelligente il numero 800 24 00 24. Per contro, se desiderate diffondere il vostro verbo in maniera asincrona ed atomizzata, secondo i dettami dell'attuale società mondializzata e reificata, facendo uso della cosiddetta applicazione Cosa c'è su, potete adoperare il numero 393-7171701. Un caro saluto da Diego Fusaro. Parenzo, Cruciani, speriamo che ve la chiudano al più presto sta trasmissione. Siete proprio il fecciume dell'umanità stasera, proprio state di non lo so come definire, fate schifo proprio voi e la trasmissione vostra. Allora ragazzi, a proposito di stupri, vi voglio fare sentire, oggi ce n'è stato, almeno ne è stato riportato un altro in cui una veniva tenuta ferma da un altro mentre uno la filmava, cose tremende, due immigrati protagonisti della vicenda, caro David, ma a parte questo... Due criminali, ti prego, dai. Sì, no, ma ti prego, ti voglio far sentire l'opinione... No, ti prego io, due criminali, due schifosi criminali. Erano anche due criminali. Erano due criminali, sono immigrati anche quelli che mungono le vacche padane in Valtellina, sono immigrati gli indiani che a Latina lavorano nelle aziende degli italiani, sono immigrati i terribili stupratori, quindi non è una categoria immigrati, no, ma è una categoria. Sono immigrati, ci sono sono i criminali, ci sono i criminali, ci sono i lavoratori, ci sono gli omofobi, ci sono gli stronzi, nazisti. Per te non ha nessuna importanza. Delle categorie. Non sono ha nessuna importanza. Nessuna. Per me sono dei criminali, io li voglio chiamare criminali. Poi ci sono i lavoratori, bravi lavoratori, cattivi lavoratori. Poi ci sono i profughi, bravi profughi e cattivi profughi. Non ci sono negri cattivi che stuprano. E allora, ti faccio questa sentire, è una categoria sbagliata. Ti faccio sentire. E su questo io non mi muovo, non mi muovo da qui, rimango qui, rimango su questa rimani posizione. Rimani a New York, no. Rimani a New York. Sentiamo sì, Davide il Vichingo. Davide il Vichingo. Ma cosa su questo c'è? L'opinione di Davide il Vichingo. Ma devi sentire l'opinione di Pane Bianco su questo. Fammi sentire di Davide il Vichingo. Sorelle, la notizia di oggi è terribile. Una ragazzina di 13 anni è stata stuprata da due profughi di quei comunisti di merda che ci fanno invadere. Io dico una cosa al prefetto di Ascoli Piceno, che doveva difendere la provincia di Ascoli Piceno, la città di Ascoli. Quella bambina ha l'età più o meno di mia figlia. Maledetto prefetto, schifoso, servo di partito. È normale secondo te, signor Vichingo? Ma no, adesso no. Signor Vichingo. Ma per me non era normale già prima. Già uno che si fa chiamare il Vichingo non è normale. Per me, a sentire questo, c'è un aggravante di condizioni di salute molto peggiorate. Questo devo dirtelo, sì. Fabrizio da Milano, poi sentiremo ancora il Vichingo, Ti faccio sentire. Sì, Vichingo. Per carità. Chi è Fabrizio? Però, naturalmente. Ciao Giuseppe, sono io, Fabrizio da Milano. Fabrizio, grande, come stai? Ma chi è sta gente? Giuseppe. Ma allora, chi è? Ehi, Puscetta, ti ho sentito. Ma chi è sto qua? Cosa sei questa Ciao, Palenzo, Puscetta dei poveri, non mi riconosci. Ciao. Ma non me ne frega niente, non ho idea di chi lei sia, non lo so. No? Io ho incontrato degli antiquari. Ma sono... Non mi interessa conoscerla. Io ho un buon appuntamento oggi pomeriggio con degli antiquari. Poi, qui a New York, la più grande fiera dell'antiquariato. Fai paura come Alfonso Signorini nel ring con Tyson, Parenzo dei poveri. Allora, caro Giuseppe, caro Giuseppe, ma chi è? Guarda, io prima di incazzarmi, che stasera sono veramente incazzato, perché veramente con quel personaggio che è a fianco una persona squallida, perché per lui esistono morti di serie A e morti di serie B. A me questa roba, te lo dico, mi dà un fastidio, perché per me i morti fatti dal nazismo, dal comunismo, dal fascismo, da Che Guevara, dagli ISIS, sono tutti uguali. E non sto continuo che se Anna Frank, cosa spregevole che hanno fatto quei quattro deficienti della Lazio, ma non diciamo che non è questo il problema del calcio, perché lo sai bene anche te che segui il calcio, che non saranno mica quattro adesivi il problema del calcio. Allora? Che facessero come in Inghilterra, che hanno debellato il problema degli hooligan spaccandogli il culo con la Thatcher, non come qua in Italia che si sta lavano la coscienza con il minuto di silenzio, la stella di Davide. Facessero i fatti, arrestassero le persone che conoscono, tanto sanno tutti vita, morte, miracoli di quelle delle curve. Li arrestano. Scusa, però Fabrizio, tu stai parli tu che hai tatuato non so che cosa sul petto, credo Dux la scritta, eccetera. Ma io te l'ho già detto, io non mi vergogno, io te l'ho detto, io sono un ex fascista. Capito, ma non perché mi vergogno, io sono fiero delle mie origini, ma oggigiorno parlare di fascismo e comunismo è una cosa passata. E poi sei anche un ultra del Milan, no? Sbaglio. Io sono un ultra, ex ultra del Milan, e ti dico che ne sono fiero. Avrai picchiato pure tu, o no? Casino, trasferto, spaccato tutto, infatti ti dico che sono uno di quelli che dice meraviglia. Che il problema del calcio sono non certo uno stemmina di Anna Frank, sono in Inghilterra. Cosa hanno fatto in Inghilterra? Gli hanno spaccato il culo, non qua, non vanno a leggere una paginetta del diario di Anna Frank, e facessero i fatti al posto. E poi un'altra cosa, quel pezzo di merda, le posso che ha consigliare chiamato, una cosa chiamato, signore, signor Ultras, stai zitto minchione, posso consigliare una cosa signor Ultras, che tu, veramente, lei, tu ormai hai raggiunto il livello Librandi. Ecco, tu quando una persona raggiunge il livello Librandi è l'offesa peggiore che possa dire a una persona. Ecco, tu hai raggiunto il livello Librandi. Signor Ultras, mi scusi. Le dico una cosa, signor Ultras, le dico una cosa. Perché lei non si rilassa un po', ad esempio, e non esce da questo provincialismo e viene qui a New York, a Park Avenue, tra la 66 e la 67esima, la più grande mostra di antiquariato del mondo. Venga qui, si rilassi un po'. Se tu hai rotti i coglioni con sti morti, se le hai, se le B. voi comunisti di merda avete fatto gli stessi morti, anche la tua battutina di merda della Siberia. Ma perché è così se agitato? Qualcuno ti avesse perché fatto la battutina, perché non te ne ma vai a Auschwitz a parte un weekend? Tu ti saresti ma incazzato. Si agita quindi così? Morti fatti dal comunismo sono ma uguali, perché? Capito? Ma che ne è successo? C'è quell'altro Minzione del Livorno che ha chiamato ieri quella merda del Livorno. No, perché su quelli della Lazio sono antisemiti, perché quelli del Livorno cosa sono? Che al minuto di silenzio per i morti di Nassiriya si sono girati e fischiavano. Cosa sono? I morti carabinieri in Nassiriya sono meno importanti di Anna Frank? Fermi lì! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Buongiorno, salve, sento, ho chiamato ieri e avevo prenotato un tavolo a nome Parenzo. Signor Parenzo, sì. Per quando? Per stasera. Quattro persone, esatto. 21. È un problema se siamo in cinque? No, ha fatto bene ad avvisarci, in quanto come lei sa il locale è piccolo. Esatto. Comunque, esatto. Anziché quattro, siete cinque persone. Sì, sì. Sempre alle ore 21? Esatto. Buon fine settimana, Andrea. Scusi, che avevo un... Non c'è problema, non c'è problema. Allora, sempre abbiamo detto, signor Parenzo, 5 ore 21. Perfetto, corretto, ci vediamo questa sera. Perfetto, grazie, buonasera. Arrivederci, buonasera, grazie buonasera. A lei di nuovo. A me che cazzo mi frega, tanto anche se non ci andiamo è nome di Parenzo. Mi ha fatto venire un'idea strepitosa, sì. Questo qua. Criminale, dovete chiamare. Criminale. Dovete chiamare criminale, e prenotare criminale. I ristoranti a nome Parenzo a Roma, però a Roma dove criminale, abita criminale, molti ristoranti criminale. Chiamate a David Parenzo per 6, per 7, poi non ci andate, così si diffonde vecchio la scherzo. Voce vecchio scherzo che facevo anch'io, io lo facevo, posso confessarlo ora, forse non si arrabbierà il diretto interessato, anni fa prenotavo i ristoranti a nome Gavronsky, ecco, questo lo no, posso confessare veramente. Sì. Sì, sì, sì, l'ho fatto qualche volta. Confesso questo, ecco, mio amico Yash Gavronsky, che abbraccio fortemente. Però questi criminali verranno, come dice Trump, individuati, presi, sì. E arrestati. Perché è una cosa vergognosa a mio nome. Ma che roba è? Poi magari se davvero io vado lì, ma che cazzo? Ma abbiamo il nome di questo qui che ha fatto questa ma cosa? Ma che nome? Questo abbiamo il numero al limite. Ma a Guantanamo deve andare. Allora, a Guantanamo mi racconto questa cosa. Andare. Tu sai che cos'è l'effetto criminale. Coolidge? Sai che cos'è l'effetto Coolidge? L'effetto Coolidge. Cool in inglese vuol dire Coolidge. Bello. Allora, te lo spiego molto semplicemente. Cosa succede temo se lasciamo... sia una porcheria però. No. Cosa, un po'. Cosa succede se lasciamo cadere un topolino maschio in una gabbia in cui c'è una femmina ricettiva? All'inizio si ha un turbine sessuale inconsulto, poi gradualmente il maschio si stanca e smette. Anche se la femmina fosse ancora disponibile, lui è ormai esausto. Tuttavia, lasciando cadere nella gabbietta una nuova femmina ricettiva, voilà! Il topolino resuscita e con galanteria si mette a fertilizzare anche lei. È possibile ripetere più volte questo processo finché il povero topolino quasi muore per la stanchezza. Gli scienziati chiamano questo fenomeno effetto Coolidge. In pratica, ecco spiegato in maniera semplice, in maniera molto, molto pratica, molto visibile, molto comprensibile alla massa, al volgo, anche a te Parenzo, il calo del desiderio e la monotonia a lungo andare che c'è nella monogamia se non ci si inventa qualcosa di nuovo. Certo, poi si può finire come quello ieri, per esempio, a Nemo, intervistato un tale che si chiama, mi sembra, Marco, che pensa di aver speso per il sesso, per la sua dipendenza dal sesso, 100.000 euro e di avere lavorato 5 anni gratis. Via. Io credo che in totale sono superato i 100.000 euro. Io ho lavorato 5 anni gratis per me stesso, per pagare le mie debolezze. E questo è dipendenza. Ogni frustrazione ricorro al sesso, Marco. Qualsiasi frustrazione, io ho bisogno di ricorrere al sesso, una escort, prostituta. Però poi quando raggiungi l'orgasmo, la bolla scoppia e ti ritrovi in una realtà che stai ancora peggio di prima. Io non so se sia vera la notizia che è stata diffusa oggi dal quotidiano Libero, caro Parezzo, dal quotidiano Libero. No, non è arrivato. Ti leggo. Ennesima... New York non è arrivato. Vabbè, ma puoi andare su internet. Ennesima follia dell'Europa. Quote rom nella polizia. Risoluzione dell'Europarlamento. Incoraggiare l'assunzione di nomadi tra i membri delle forze dell'ordine. Aspetta. E nei mezzi di informazione pubblici, garantendo ai loro rappresentanti posti perfino nel CDA della TV di Stato. Ragazzi, una idea, follia in acce, cioè, così rom nella polizia. È un modo per integrare. Ma no, è un modo per integrare, mi pare ottimo. Fare in culo. Beh, ma conoscono le pe... tecniche dei ladri. Ma dai, no. È un'ottima idea invece. L'FBI come nel film, spesso come nel film assume ex criminali. Certo, sì. Ma no, è una genialità. Bisogna fare una campagna anche in Italia, ottimo. Anzi, magari il futuro capo della polizia potrebbe essere Johnny Lo Zingaro. Cioè, voglio dire, mi sembra Sabaeda, ad esempio, Sabaeda ai servizi di intelligence. Mi pare una siamo ottima. A 10.000, altro che siamo... assumi la ROM. Altro che assumi la ROM. Polizia di Stato assumi la ROM. Ma mi che vuol dire ottimo. le quote ROM? Idea. Le quote ROM in polizia? No, le quote idea. ROM. Li potresti istruire, li porti dentro le istituzioni e possono essere utilissimi per scovare i criminali. No, guarda che l'FBI lo fa costantemente questa cosa di prendere di usare ex criminali. Sì, ma tu sei a favore delle quote ROM, delle quote ROM nelle che ne so, tra i giornalisti, nella polizia, può essere un modo. Può essere un modo per integrarle fattivamente. Ma fattivamente. Dai, su. Domenico da Catania, anzi no, prima c'è Antonio dalla provincia di Brindisi. C'è da ragionarci, amico mio, c'è da ragionarci. Vai, Antonio, dimmi. Oh. Sì, ciao, buonasera. Dai. Sì, no, allora, io a Parenzo gli voglio dire. Cioè, lui è un ebreo. Promette male. Però, promette male. Promette malissimo proprio. Dunque, perché lui è l'ebreo, dice che di essere ebreo, però fa una propaganda antisemitista. Cosa c'entra questo? Antisemitista? No, voglio capire, sì. Antisemitista? Ma che vuol dire? Non vuol dire un cazzo? Non vuol dire nulla? No, antisemitista non vuol dire niente. Parenzo, tu... No, ma lei deve, cominci a parlare in modo normale. Antisemitista non vuol dire nulla. Antisemitista non esiste, è una parola che non esiste. Ragazzi, mi fate un attimo raccontare. Antonio, cosa vuoi dire? Spiegami, cosa vuoi dire? No, infatti, antisemitismo. No, non infatti, esiste, come? Ma che facciamo dici? Come si dice? Tergiversiamo, cioè giochiamo intorno alla parola. Ok. Ma quale parola? Ok, no, come, quando, niente. Perché? Ma di che parli? Come parli? Io parlo italiano, forse. Non parli italiano, non abbiamo capito un cazzo. Cosa vuoi dire? Ma voglio dire che Parenzo non può dire. Ieri praticamente stavo sentendo quel ragazzo lui guarda uno due tre ti manda a fare in culo uno due e tre ti manda a fare in culo, ecco, vai a fare in culo. Ciao. Datemi Rosina, voglio la nonna Rosina, voglio Rosina la nonnina. Sì, pronto. Rosina! È stato lei prima a chiamarmi? Non lo so, Rosina, grande Rosina. Come sta Rosina? Buonasera. Ma con chi parlo? Sono Cruciani, come stai? Non mi interessa di niente, sto male. Aspetta, che c'hai? Che è successo? Oh, Rosy! Pronto? Richiamiamo, ragazzi, richiamiamo. No, è ancora incazzato. Chiama. Pronto? Aspetta, Rosina, ti devo chiedere una cosa. Ferma, non ti voglio dire niente. Ti voglio dire una cosa. Quando inizia il processo contro quei signori là? Martedì mattina. Che meno pena male, ti aspetti male. Nei confronti di questi? Meno male che inizia questo processo. Per fortuna inizia questo processo. Sì. Come li dovrebbero punire questi qua, secondo te? Non sento, non capisco bene. Come li dovrebbero punire questi qua, secondo te? Questi qua che ti hanno come dire, ti hanno fatto del male, ti hanno... Io vi ho detto una volta. Sì, c'è delle sì. brava gente, ce n'ho qua di bravi, e bravi anche, dei bravi marocchini e delle sì. ragazze brave. Sì. Ecco, non si mettono tutti quei stracci in testa perché i genitori le lasciano libere. Conosco della brava gente. Sì. Ma quelli che delinquono, sì. quelli che mi vengono a rubare, è sì. stato un tentato omicidio, ci hanno mezzi ammazzati, sì. io li voglio o in galera o al suo paese, non li voglio qua. E quanta galera dovrebbero fare secondo te questi qua? Questi quello che sono che già... meritano. Cioè 20 anni, 30 anni, tentato omicidio, una non cosa grossa. Non lo so, mi scuso, non voglio essere volgare e vilana, ma buonasera. Aspetta Rosina, aspetta un attimo che ti devo chiedere il forcone. Ma... Mm. 9.635 firme, Parenzo assumi la Rom. Concetta dalla provincia di Catania, vai. Concetta. Buonasera, Crucia. Pronto? Dimmi. Buonasera, dimmi. Cruciani dimmi. E Parenzo. Vi rubo 10 secondi. Vai, dimmi. Allora, voi siete a metà strada tra i giornalisti e i buffoni di corte. Sì. Quando date una notizia, corte, però. Aspetta, quella della legge che dovrebbe esistere circa l'accompagnamento dei minori. Ma non lo a scuola, so io, lo dice la Fedeli, informati, non lo dico io. Senti, concetti, amica mia, ma e crei sì. pensiero, altrimenti sono chiacchiere. Ma rivolgiti al ministro Fedeli, non a me. A me non me ne frega un cazzo di quello che dice. Torbido, ma questa è matta. Questa... Allora, prima ti informi sì. e poi fai l'intervento. Allora, ciao, senti, concetti, io dico quello che mi pare, innanzitutto, non me lo sì, devi certo. dire tu. E primo, infatti, ha detto la Fedeli delle cazzate. Perché che non fate neanche informazione. Ma rivolgiti a lei. Capre ignoranti. Senti, Concetti, è arrivata il fenomeno qua. Concetta dalla provincia di Catania a dare lezioni. Che lezioni puoi salutare? Dare tu? Okay, ma che lezioni ciao, puoi dare? No, io non ti voglio salutare. Chi ti vuole salutare? Allora. Nessuno ti vuole salutare. Prima cosa. La Fedeli ha detto che esiste una legge che obbligherebbe i genitori ad andare a prendere perfetto. I ragazzi alle scuole medie. Hai perso un'occasione per sputtanarla. Ti potevi informare. Perché io ho detto che non so se manco se esiste sta legge o no, non me ne frega nulla, il punto allora non è quello. È questo che voglio dire. Prima ti informi e dopo parli. Ma è arrivata lei, prima ti informi e poi parli, prima ti informi e poi parli, prima ti informi e poi parli. E butti esche per i ratti, altrimenti butto non esche. Né ma sono loro che litigano. Ma sono loro che litigano. Che cazzo vuoi da me? Ma tu Concetti, che vuoi fare informazione? Ma tu? Io faccio quello che vuoi. Se mi vuoi sentire bene, se no te ne vai a fare in culo. Tu e la provincia di Catania, non hai capito ancora. Ma volevi arrivare? No. E ti mando a fare in culo pure io. Sì, okay. Aspetta, ferma ciao, là. Ferma là, deficiente. No, aspetta. Non mi fermo. Ferma un attimo, imbecille. Aspetta. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo. Pettiti Parenzo. Pettiti Parenzo. A me ne piace Ostigio. Sei Asmodeo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa, che io delle tue denunce mi sciacco i coglioni, hai capito? Cruciani! Ieri mia figlia di 5 anni per la prima volta ti ha visto in video diretta e mi ha detto: ma papà, ma perché quella donna parla con la voce da maschio? Ma dai, ma tagliati quei cazzo di capelli! Pronto? Buonasera, Cruciani e Parenzo. Allora, voi siete a metà strada tra i giornalisti e i buffoni di corte. Quando date una notizia, come per esempio quella della legge che dovrebbe esistere circa l'accompagnamento dei minori a scuola, informati, perché siccome tu sposti opinioni e crei pensiero, altrimenti sono chiacchiere da quattro soldi. Oh, la signorina Concetta dalla provincia di Catania ci ha chiamato. Mi stai dando... mi stai dando troppa importanza, è mezz'ora allora, che sto al telefono. Sì, ma Concetti, non ho capito bene, tu che stracazzo vuoi da noi? Cioè, vuole, questo volevo ecco. capire bene. Cioè, allora, prenditela, tu, la se tua pensi professionale se... qual è? Sei ma che ti interessa? Ma non ti interessa, allora, io sono questo. Di dire io una cosa, sei no. obbligato ad informarmi. Io obbligato, ma capito? Sarei obbligata, io non sono obbligato sì, a fare nulla, non ti preoccupare. Tu, fra il serio e il faceto, il crei seno opinione, il faceto, crei opinione. Il pensiero della gente, hai capito? Senti, amica quindi mia, devi dare prenditela con informazioni. Prenditela corrette. Con qualcun altro, prenditela no, con qualcun altro. Papocci. Ma che ne so, ma è impazzito. Ma costruisci papocci. Sì, costruisco papocci. Ora, sì, non vorrei esattamente. Andare ragione. Agli insulti questa reciproci, ragione. Io ti volevo in 10 secondi ragione. Dire questo. Dimmi, ti dimmi. Chiudo brava. La telefonata, così ragione, poi tu mi puoi rispondere secondo ma le no, regole. Ma che chiudi? Ma che sei? Che decidi tu? Ma che decidi tu? Io non ti rispondo più. Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire? Cioè, Concetto, cosa vuol dire? No, ma ciao cosa? Ciao che? Cosa? Cioè, ciao, se, ciao, se non ciao. Sei d'accordo con quello che ha detto il ministro Fedeli sui bambini di prendere la scuola alle scuole no, medie... No, sei tu che fai sei il giornalista. Sei tu che faccio il giornalista. Tu sei tu che fai il giornalista. Tu ti devi informare. Perché se dai delle informazioni devono essere corrette. Corrette. Così corrette. Hai anche la possibilità sì. di mettere sì. in, mora in mora questi politici di cui tutti ormai ma ho abbiamo detto piene che... le scatole. I vorrei capire anche. Chi ci dovrebbe poi ecco, io lo dico in maniera più elegante. No, non è elegante, è uguale perché non ce li hai no, i coglioni, no, questo no, è il punto. No, semplicemente no, perché non ce li hai. Sul... vabbè, potrei usare un altro termine. No, però Concetto, il punto è un altro. Concetto. Io il concetto, tu hai un marito, sei un giornalista. Ma sono cazzi miei quello che sono. Sei sì. voglio capire se hai un marito o no, un compagno, un marito dei non figli. Non ti interessa, no, mi interessa dei figli. Personali. Dei figli no, ce li hai? No, non hai figli. Sei sola. Non sei sola. Ti rispondo. Non ti rispondo, non ti rispondo. Volevi semplicemente rispondere. Tu fai un servizio. Ma quale servizio? Però passi sì, ha ragione, notizie, passi informazioni. Sì, allora io sono d'accordo con corrette, lei, signora, totalmente. Perché altrimenti crei papocchi. Sì. Grazie, grazie, professoressa, papocchi, grazie, papocchi. Maestra, prego, grazie, prego, maestrina. Tante belle prego. Cose, statemi prego. Bene. Ciao, adesso, ciao. Adesso una tisanina e a lettuccio. E a lettuccio, la tisanina e a letto. La tisanina e a letto. Agatino da Catania. Ciao. Agatino, vai. Buonasera. Sì, dimmi. Buonasera sì. Zanzari, buonasera. Dimmi. Tre domande veloci a te e sì. al Similenzo. Sì. Non so se, al sì. E dai, forza Catino, dai, forza, su, allora, veloce. La prima. C'è stata una notizia, mi sembra, che un rom Agatino, dire... prima che stasera mi incazzo, vuoi togliere quella merda di viva voce che hai? Comandi un cazzo, tu dovresti già farlo dall'inizio. Sei un criminale, sei. Un criminale, ciao, ci siamo. Allora, dai, adesso prima domanda. Mi sembra che c'è stata una notizia, domanda. Un rom ha cercato di rapire una bambina di 12 anni. E poi è stata salvata dalle urla della mamma e dai carabinieri che sono intervenuti. Che cosa ne pensa il Similenzo? Ma non lo so, ma che cosa vuoi che ne pensi? No, nella stessa poi volevo fargli un'altra domanda. Cosa devo pensare secondo lei? Secondo lei cosa devo pensare? Vorrei che lo dicesse. Ma secondo lei, quando aspetti, viene commesso un crimine, aspetti, secondo aspetti, lei, aspetti. Caro genio della lampada, no, secondo insulti, lei, quando ha... Similenzo, no, non ho detto non genio della lampada. Lampada. No, non le ho detto che è un cretino. Non le ho ancora detto che è un cretino. Non glielo ho ancora detto. Ma non gliel'ho ancora detto che è un cretino. Aspettavo un attimo a dirglielo, non gliel'ho ancora detto. Lei mi ha posto una questione, io non le ho... No, è indegno di stare in radio, cretino io non sono e continui a fare la sua trasmissione. Saluti. Ho detto semplicemente, non ho ancora detto che è un cretino, non l'ho ancora detto, se lo avessi detto. E andiamo avanti, Abdel da Torino, vai Abdel. E andiamo avanti. E andiamo avanti, Abdel dimmi. Buonasera signore, signor Crociani, sì. signor Parenzo. Sì. Allora? Allora io da immigrato voglio iniziare con questa parola con quale inizio il mio intervenuto per dirti ma Crociani ma veramente ma stai parlando malissimo degli immigrati. Oddio, ma basta con queste cose. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma Grassani, mi puoi parlare per cortesia, che è la mia prima volta che parlo. Ma cosa vuoi tu? Di dove sei, Abdel? Da dove vieni? Innanzitutto, io sono del Marocco. Del Marocco, benissimo. Sei muslim? Tu essere muslim? Abdel è muslim. Sono musulmano e fiero di essere un musulmano. Sì, per carità, assolutamente. Tu quante volte preghi? Ma problemi questa cosa? No, quante volte preghi tu al giorno? Quante volte pregare? Ogni giorno? Ma perché pregare? Parli in italiano normale, no? Ma Crustani, io prego 5 volte al giorno. 5 volte al giorno. Qui c'è il classico test che viene fatto alla Zanzara, no? Il classico test, che è quello della prova vera, se poi uno racconta la verità. Allora, no, perché tu quella sei... prova non te lo dico perché lo so già dalla mia esperienza come ascoltatore, perché appunto, a dirmi Allahu Akbar, quella lo dico io sempre. Ecco, dillo tranquillo, come fai quando preghi? Ti metti io e fai Allahu Akbar. Allora, bellissimo. Crusciali, mi sembra. No, ma fallo, Abdel, è una prova. Se no non ci credo. No, no, se no non ci credo. Se no non ma ci credo. Ma prendi tuoi quelli. Scusami, va bene, Crusciali, dimmi per favore. Qua comando io, non è che comandi tu. Cioè, dimmi un attimo. Allora, dimmi se vuoi. Allora. Dimmi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rispetto. No, io ma detto anche rispetto, tranquillamente. Detto tranquillamente. Rispetto chi porto agli italiani, magari non lo porto a ai miei paesani, per dirti la verità. Sì, ma com'è? Com'è la... Sì, ma vi come capisco, suona? Io sto parlando della questione immigrati. Ma capisco, che la questione immigrati è troppo complicata. Dimmi capisco. Mi fai parlare per cortesia. Sì, ma cosa vuoi dire? Non ho capito. Sì, vi capisco che avete visto di tutto e di più della parte dei immigrati, hanno rovinato di tutto quanto, ma ti sembra giusto di non parlare di degli cosa? Esempi della gente che produce qualcosa, che è onesta? Ma lo sappiamo, Abdel, già ci hai rotto i coglioni, già ci hai rotto i coglioni con questa cosa, già ci hai fatto venire il sangue alle come si dice, il latte alle ginocchia, mi hai fatto ammosciare tutto, mi sono ammosciato, io devo avere l'adrenalina qua, se non c'ho l'adrenalina mi annoio, mi stai annoiando, sì, sei ma noioso, la ma lascia perdere, non sono, vedi, ma non sono educato, sto parlando io. Però ma chi... è vero che ognuno esprime il voglio tuo parlare, livello culturale, voglio parlare, sì, sì, come certo, lo vedi. Voglio parlare di piselli. Davide, scusami, aspetta. Ciao, Abdel, ciao, ciao. Come ciao, dice, scusi? Ciao, voglio parlare di piselli. Aspetta, fermo. Noi siamo musulmani seri 100% e ci crediamo. Tu non credi un cazzo. La Zanzara. Chiamare, caro David, vorrei chiamare perché mi pare fondamentale. Vorrei chiamare un signore, un professore, un professore, una persona importante. Si chiama professor Izzo. Si chiama Izzo questo signore. Izzo. È un professore, un andrologo, un sessuologo, un urologo, una persona importante che ogni giorno si trova a verificare quello che succede nella natura dell'uomo, nel punto più importante per ciascuno di noi, cioè il pisello, cioè il cazzo. Chiamiamo Izzo, ti prego, chiamiamolo. Pronto Izzo? Professor Izzo? Sì. Salve, sono Cruciani, Radio 24. Sì, salve a lei, buonasera. Come sta? Bene, bene. Grazie. Se la cava? Me la cavo, se ho il paziente, ho a che fare col paziente, quindi ce la caviamo, vai. Nel senso che in questo momento ha a che fare con un paziente? Sì, sì, ma non è... Lo lasci un attimo là il paziente. Lo sto lasciando qua. È vivo, insomma. Lo lasci, ma che problemi ha questo paziente? C'è un problema di disfunzione erettile. Ah, disfunzione erettile? Sì, sì, sì. Ma sì, grave? No. Ah, mannaggia. No, è un disagio. Il disagio è sempre grave perché è montante, cioè cresce. Monta, cresce mano a mano che uno non ce la fa sempre di meno. Certo, ma la disfunzione erettile tragedia, in questo caso, sempre tragedia, senza fare nomi e cognomi, per carità, sì, certo, è una disfunzione erettile, cioè che proprio non si rizza proprio, zero? No, la cosa più frequente è quando se ne scende per strada. Quando? Quando se ne scende, quando se ne scende per strada, la detumescenza precoce, cioè quando la reazione si perde per strada. Da eretto diventa poi gonfio, da gonfio diventa... Ah, l'espressione napoletana è quella, cioè quando se ne scende per strada. Se ne scende per strada. Cioè, bellissimo, professore, io già l'adoro. Cioè, il punto fondamentale è questo, perché lei poi deve essere anche uno bravo da questo punto di vista, perché il problema è psicologico spesso, no? Non è solo... È sempre psicologico. Mi faccia capire, questo paziente che lei ha adesso, praticamente, prima gli si rizza e dopo giù, via, dopo qua... Poi dopo se ne scende. Ma dopo quanto? Dopo quanto? Dopo, molto spesso succede quando uno deve penetrare una donna. Cioè dopo due secondi praticamente che è arrivato a... Senta questa che è buona. Si chiama sindrome da vagina dentata. Sulle maschi, finché siamo all'esterno e siamo nei preparativi, può anche andare bene. Come dobbiamo ci approcciamo a entrare in vagina, se ne scende. E quindi si chiama sindrome da vagina dentata. Cioè perché uno c'è e subentra il terrore. Che la vagina, ma magari gli altri tipi di rapporti vanno bene. Nei preliminari, come devi entrare... Sindrome da vagina dentata da Parenzo, le grandi inchieste della zanzara sulla sessualità. È un'immagine terribile, è un'immagine spaventevole. Devi ammettere, è spaventevole. Il maschio occidentale, a differenza del maschio orientale che apprezza tutta la donna, non la vagina, noi partiamo al contrario. Prima dobbiamo risolvere i nostri rapporti con la vagina e poi dopo ne parliamo. Per cui noi siamo più soggetti allora a questa sindrome da vagina dentata, mi sta dicendo? Diciamo di sì, diciamo che noi sentiamo la nostra sessualità nel coito, nella penetrazione. Sì. Invece gli orientali hanno i feticismi del piede, delle altre cose che apprezzano la donna, non quella parte. Dunque hanno meno, secondo lei hanno meno problemi di erezione? Ma no. Diciamo che hanno più il senso della sessualità intesa proprio come olistico, come completo, non limitato. Non hanno la fissazione della penetrazione, ecco questo voglio dire. No, perché noi li chiamiamo viziosi, ma loro invece agiscono in tutte le maniere. Senti, gli africani invece? Gli africani è un altro mondo, lascia stare. Ma è vera questa storia, ne abbiamo parlato anche recentemente con le storie dell'immigrazione. Sì. E una volta per tutte, la storia del Black Bamboo, è vero o no? No, come no, siamo a livello di un 60% in più, insomma. Di, 60% in più di media? Sia di lunghezza che di doppiezza. Dunque le donne italiane che vanno a fare turismo sessuale fanno benissimo, secondo me. Vabbè, ma quello è una cosa, quello è... Ma quello è un mito, ma è un mito reale come dimensioni. Però poi, se noi andiamo in Vietnam, che invece hanno le vagine strette, noi passiamo per gli africani, no? Il problema è questo, è sempre la nostra media, noi occidentali, la nostra media in erezione sono i 13 centimetri classico, più o meno, in erezione, solo noi ce lo misuriamo, non in erezione, ce lo misuriamo a riposo, da qui nasce la sindrome da spogliatoio, cioè? Dove i maschi non molto spesso non vanno a fare sport oppure si coprono nel spogliatoio per non farselo vedere in stato di riposo. Che non c'entra niente, però intanto noi siamo condizionati da questo fatto che col freddo ci sia una introflessione del pene, col grasso si ha un'introflessione del pene, anche col grasso. Mamma mia. I ragazzi sono rovinati perché quando non fanno sport hanno l'accumulo dell'adipo pubblico, per cui il pene si nasconde nell'adipo pubblico. Ecco, io quello che voglio sapere da lei, la maggior parte delle persone che si rivolgono a lei, che è un medico, chirurgo, uno specialista di andrologia, che problemi hanno? Peni piccoli, cioè micropenia? Diciamo che è latente la micropenia, ma ipogenitalismo latente, cioè sotto, se loro potessero avere un paio di centimetri più lungo e più grasso, tutti sarebbero, quasi tutti, sarebbero contenti. Poi c'è quello che paradossalmente ce l'ha piccolo. Sì. Però poi viene per altri motivi, è un paradosso questo. Cioè, non ho capito. Uno col pene piccolo, uno può anche fare felice una donna, perché la donna l'orgasmo. Beh, oddio, dipende piccolo. Che non dire. Lo so. Qui Andro Mercù ha un sacco di problemi, ad esempio. Il nostro Andro Mercù, da questo punto di vista. Ma che vuol dire? Lei che cosa intende per un micropene? Per lei, che cos'è? Micropene, il vero micropene, è quando è un pene che in erezione è al di sotto di 10-11 centimetri, in erezione. Parliamo di lunghezza, poi c'è anche la circonferenza, ma diciamo di lunghezza che è la cosa più eclatante. 10-11. Sotto i 10-11 è un micropene. È un micropene. Poi ma perché sei così ossessionato, Cruciani, con sta roba? Perché sei così ossessionato? Non lo so perché. Perché? I casi più... Te lo misuri tutti i giorni? No, ma non me lo misuro, mai misurato. Perché te lo misuri tutti i giorni? Scusi, dottore, ma il caso più clamoroso che lei ha incontrato di micropene, qual è stato? 3 centimetri? 4-5 centimetri. In questi casi che si fa? Che si fa con 4-5 centimetri? È una tragedia umana, che si fa? No, è una tragedia quella, perché non esistono terapie efficaci per ingrandire un pene in maniera soddisfacente. Lei non ci crede a queste cose dell'allungamento del pene? Ah, alcune volte funziona, ma rare volte. Diciamo che l'aspettativa del paziente è sempre penalizzata dall'esito finale. Io non ho capito, 4-5 centimetri, quanti casi sono presentati a lei? Ma non lo so questo, ma pochi. Invece sui sotto gli 11 siamo, che percentuale possiamo dare? Intorno al 10%, vai, diamo una settimana. Intorno al 10%. Allora voglio capire, uno che ha un pene di 10 centimetri, diciamo in erezione, è un problema serio secondo lei? Una cosa grave, cioè una cosa, che si può fare? Serio, sì. Il problema è che in quei casi si può monitorizzare e vedere un pochino se è il caso di ricorrere a trattamenti o fisiatrici, di terapie basate sull'esercizio, su un allenamento. E che facciamo? I pesi al pisello? Che facciamo? No, esistono anche degli studi e dei lavori sul vuoto, sulla stimolazione del vuoto, il vuoto d'aria. Il vuoto d'aria? Sì, e come si fa? Cioè, ma è per rafforzare il pisello, voglio dire? No, si mette il pene in apparecchiature che va sotto vuoto spinto, vai. Sotto vuoto spinto quello si gonfia, si gonfia e fa allenamento. Ma guardi che ci sono coppie che sono felici anche col pene di 10-11 centimetri. Cioè lei dice la donna si accontenta di quel pene, punto e basta. Ah sì, perché l'orgasmo esterno, quindi l'orgasmo vaginale, se la coppia è ben assortita. Cioè ci può essere l'orgasmo vaginale, la donna non pensa troppo al sesso. Assolutamente no. Non ragazzi, io non penso che esistano donne che si possano accontentare di 10 centimetri, adesso oggettivamente. Lei dice di sì, dalla sua esperienza ma sì. Ma se una coppia cresce insieme... Quindi non hanno parametri differenti. La donna non viene solo per il pene, guardi, il maschio va per la vagina, la donna non va solo per il pene, la donna va per la persona, che è molto diversa. È il caso di Parenzo, per esempio, abbastanza acclarato, che la donna sceglie la persona e non ha dipinto, ha fotografato. No, io ti mando, la sta mettendo sul personale. Beh, sempre. È un criminale, ma è un criminale. No, faccio questa dichiarazione: non ho mai avuto la sindrome di colui il quale è, diciamo, micro dotato. Mai. Anzi, quindi voglio dire, sono battute che non mi tocca. No, nel senso, come si permette? No, ma come si permette, sto medico? Come si permette? Mi lasci di avere qualche perplessità, è stupendo. Ma come si permette? Dovremmo valutare. Vai a Napoli. Ma non valutate proprio nulla voi. Noi ci fidiamo, però boh. Io non mi fido mai, però. Io non mi bravo, fido mai. Bravo, bravissimo. Lei fa un mestiere del cazzo. Io glielo voglio dire. No, lei no, fa no, un no, mestiere no, questo del no. Cazzo. Ha un fa uno dei mestieri più preziosi in Italia. Cioè, curare le disfunzioni sessuali delle persone. Ma perché ti ha preso così a cuore? Come mai? La qualità della vita. Scusi, professore, però c'è una cosa. Si presentano da lei anche situazioni con persone con un pene molto grande? Come no? Ma loro non si vantano perché lo ritengono un fatto normale, vede, quello è il problema. Cioè, perché si presentano da lei? Per esempio, c'è gente che si presenta con 30 centimetri? Sotto i 20 l'ho visto. Ma sotto i 20 mica è un grande pene, professore. Dice lei? Ma sotto i 20, non dico che è normale. Una ventina di centimetri, guardi, che poi devi dire quanto la circonferenza deve vedere. Beh, la circonferenza grande lei l'ha vista. Guardi, lascia il segno comunque. No, questo sicuramente. E perché viene da lei allora? E viene perché magari se ne scende per strada, ma ci vuole. È questo. Se ne scende per strada, o piccolo, grande, se ne scende. Non c'entra niente, dice il fatto della grandezza. Può essere piccolo e giocoliere, ma quando è grande. Però le assicuro che intorno ai 20 centimetri, come disse il mio amico Ruffini. Giocoliere. È una bella fava, disse il mio amico Ruffini. Direi pure io. È 19-20, d'accordo, però non è che siamo a livelli di... Ma io intorno ai 20 vuol dire anche 22, però voglio dire, insomma, rispettiamolo, vai. Giocoliere. Può essere 18, quando è piccolo è giocoliere, quando è grande che giochi. Fa male, insomma. Fa male e basta, dice un pene da 22 fa male e basta. Direi di sì. Ma sono venute da lei donne che si lamentano per la grandezza del pene del proprio marito? Sì, del proprio... come no. Ma da lei vengono tutti per dire Parenzo, vai anche tu. Cioè, no, a volte chiamo. A volte le posso mogli, dirvi, io avrò altri. Telefono le mogli, interessante. Attenzione, questo è interessante. Chiamano direttamente le mogli. Telefono le mogli spesso, ma poi quando vengono, per esempio, per motivi di fertilità. Sì. Allora, quando noi si domanda sulla come va sessualmente, il maschio dice bene, la moglie vede la faccia della moglie, capisci che bene, capisci quindi che la coppia si adegua pure. Noi quando arriva c'è l'acqua alla gola. Ci crede alle pasticche o no lei? Come non ci credo? Hanno salvato hanno creato una rivoluzione, solo sono state gestite molto male, penso io. Lei le prende? Hanno creato una rivoluzione. Lei le prende? Ma chi è che non le prende? Beh, io ribalto la domanda. Ma io qualche volta per provare. Beh, allora perché lei che è diverso da me che c'ha? No, perché Parenzo, pigli pasticche di Viagra, mai. Io mai. Assicuro. L'unico puro è sempre lui, mai. Allora, ma ti assicuro, non le ho mai prese. A 41 anni sarebbe grave, no? A 41 anni sarebbe grave. Non c'è niente da ricorrere. Sì, ma quando va male non sappiamo cosa fare. Sai cosa diciamo? Quando va male, perché deve andare male? Che diciamo? Vabbè, se una volta va male, dice: guarda, scusa, ho dei pensieri di lavoro, mi ha chiamato Donato da Manto, ma Mauro da Varese, non lo so. Mai dire non mi era mai capitato. Dottore, grazie, a presto. A presto, abbracci. Auguri a tutti. Grande Pierluigi Izzo, specialista in sesso. Ciao. La Zanzara. Naturalmente. David, così la maggioranza silenziosa si sfalda. Serve un messaggio forte da parte del nostro leader Massimo. David, assumi la Rom, David! Parenzo, cambiamola insieme! Fatti paladino di questa crociata, Parenzo! Ma allora la Zabaglietta? La Zabaglietta è stata assunta da Parenzo. Ah sì? Sì sì, l'ha promesso. Ciao, sono Siri. Anche io ho firmato la petizione. Parenzo, assumi la Rom. Non essere ipocrita. Andiamo avanti. Ragazzi, avete sentito? Non si molla qui, ragazzi, dobbiamo arrivare a 10.000. Avanti campagna, tutta, change.org. Firmate, Parenzo assumi la Rom, firmate. Questa roba qui che stai facendo ha lo stesso valore dell'indipendenza della Catalogna proclamata oggi in modo totalmente fuori dalle regole. Ecco, tu... Ha lo stesso valore di quello che ha fatto oggi il sedicente governo catalano. Lo sai che io adoro questa cosa, perché è l'inizio del caos. Io voglio la guerra civile in Spagna. Non dirlo neanche per scherzo, è una tragedia. Ma te lo posso dire, non ci sarà. Ma se ci fosse una bella guerra civile, ogni tanto ci vuole. Questo Puigdemont è da tanti anni. Ma chi se ne frega? Ma tu parli di gente che conoscono quattro persone. Ci vuole. È un tema fondamentale internazionale. Tra l'altro, fammi dire una cosa che veramente la cosa divertente è che il povero Salvini, mentre qualcuno davvero fa l'indipendenza della Catalogna, quello arriva sempre tardi. Oggi è nazionalista, sovranista, quando invece rinascono gli indipendentisti. È sempre fuori tempo Ce n'è uno, la Catalogna. No, dappertutto, anche a Bruxelles, come sai, dove? I Valloni. Poi dopo la Reggio che si vuole dividere dall'Emilia, Reggio Emilia. Fanno dei casini in giro per il mondo, anche in Italia, pazzeschi. Poveretto, sì, lo sai, vogliono fare un referendum per dividere Reggio dall'Emilia. Sì, vabbè, non dire cazzate. Sì, davvero. Sì, ragazzi, il punto è uno solo. Io voglio, è da tanto tempo che non c'è una bella guerra civile. Una bella guerra civile in un paese. Non dirlo ma perché? Per scherzo, ma sarebbe salutare. Una bella guerra civile, vinca il più forte, via. Ma alla fine era così. Rahoi, adesso ma no, va bene. Ma vabbè, io voglio il caos. Io adoro il caos. Ma perché vuoi il caos? Ma il perché caos? Sei, perché il stai caos. Distruggendo questo paese e l'Europa? Perché distruggi l'Europa? Ma che cazzo me ne frega dell'Europa? Perché distruggi tutto? Ma in che mondo vuoi vivere tu? Io ho deciso di non parlare di queste cose perché mi annoiano profondamente. Invece mi interessa molto una notizia che ho letto, che secondo me fa parte di quelle notizie false che ogni tanto vengono diffuse perché non è possibile. Pare, come hai sentito prima nella grande inchiesta che abbiamo fatto sulla micropenia, sui peni piccoli, sui problemi erettili e su... Com'è che ha detto quello quando uno non ti si alza? Pazzesco, l'espressione stupenda in napoletano, ritagliatemela dopo, di quel professore di prima, meravigliosa. La grande inchiesta sul sesso della Zanzara attraverso i protagonisti, attraverso gente che tocca piselli dalla mattina alla sera, tocca piselli, cazzi dalla mattina alla sera. Dunque hai in mano la situazione, hai in mano le statistiche, caro Parenzo. Hai in mano qualcosa, amico mio, hai sentito. Una cosa schifosa. Altra notizia, ti sei divertito però prima, sentivo che ti divertivi una vergogna inaudita, non puoi usare questo spazio in questo modo. Perché per me è un'esagerazione, che ci sia una moda tra le donne, secondo me non è vera questa cosa, l'ho letto nei giorni scorsi, mamma hai capito? Mia, quella del mamma mamma mia. Libero. Ma almeno prima di dire questa cosa qui, almeno diciamo una cosa seria: le prime nozze gay in carcere, possiamo dire, questa è una notizia di oggi, vera, verissima, non fake. Buona, ma guarda bene, che è un molto segnale bene. Importante, è un segnale no, importante. Ma io voglio capire se è vera questa notizia. Due lesbiche si sposano in carcere a Re Bibbia. Ma non dovrebbe nemmeno essere una battaglia radicale, la Bernardini De Pace che dice l'affettività è un diritto. Per questo siamo in sciopero della fame. Questo non ho capito. Ma sciopero della fame, miei amici radicali. Però vabbè, andiamo. Allora, io voglio capire se lei ha detto davvero sciopero della fame. Ma per cosa però? Non ho capito. Sì, appunto. Vorrei capire questa cosa qua. Ma è vero o no che c'è una moda tra le donne, cioè quella del mestruo libero, cioè di quando uno ha le mestruazioni, di andare in giro senza assorbenti, con la macchia di sangue che spunta sotto, per esempio, dai jeans. Ma una specie di free bleeding. Free bleeding. Ma che porcheria sei? Mi domando se è vero o no. Ma che è vero o no? È una fake news. È vero o no questa cosa? Una fake news. Dico solo questo. Silvano della provincia. Silvano della provincia di Bergamo, vai. Che porcheria. Ciao Cruciani, Parenzo non lo saluto perché non merita neanche di essere salutato. Quel che è rosso. Sì, questo è Silvano. Silvano, tu hai un micropene tu? No, fortunatamente no, ce l'ha Parenzo Sicuro. Sicuro. Allora vai, dimmi. Ecco perché non si sbilancia troppo, non va di qui, non va di lì, non va di là, tiene tutto nascosto. Perché? Allora, niente, volevo dire, per risolvere la questione di sto Cesare Battisti, che ormai è una storia che va avanti Perché ti sei fissato con sto Cesare Battisti? Di a quel mer rosso di stare in silenzio, per favore, perché è ora di finirla. Ormai i comunisti hanno rotto i coglioni. Vabbè, mi domando, per porre fine a tutta questa storia, sì, possibile che di tutti i parenti delle vittime, nipoti, figli, non ci sia stato uno? Io mi domando come può essere, non ce ne sia stato uno che sia andato in Brasile e quando trovava questo coglione in spiaggia che si divertiva e puntava una pistola nella testa, gli diceva chi era e tirava il grilletto. Beh, caro Silvano, sarebbe cosa buona, devo dire la verità. Certe questioni che vanno troppo lunghe si risolvono così. Caro Silvano, tu sei per i modi spicci, per i modi brutali, i modi rapidi e anche indolori, muore certamente un terrorista. Però devo dire la verità, se uno spinge fino in fondo il ragionamento silvanesco di questo personaggio della provincia di Bergamo, in fin dei conti, caro David, non ha proprio tutti i torti. Ormai l'unica giustizia che si può fare è quella lì, visto che i giudici non riescono a andare alla fine. Che dici, Parenzo? Tu che dici, Davide? Non c'è nulla da dire, c'è da chiamare immediatamente il reparto più vicino dell'ospedale. Lei è una persona molto sola. Per fortuna c'è questa Radio 24 e lei telefona qui costantemente. Come l'hanno difeso i francesi, gli scrittori. Io non ho mai difeso Cesare Battisti. Io non foraggio proprio nessuno. Ma che stiamo scherzando? Ma chi? Ma lei, allora, Silvano, scusami un attimo. Tu risolveresti con un colpo dunque di pistola in testa al signor Battisti. Però nessuno dei familiari delle vittime vuole andare in Brasile a fare questa operazione, che sarebbe certamente benedetta. Io non incolperei assolutamente. Allora dagli il mio numero di telefono. Perché, che hai tu, una pistola? No, non ho niente. Ma lo faresti, però? Il mio numero di telefono con una bella offerta. Ma tu lo faresti? Se fosse stato mio padre, guarda, sinceramente, se avrebbe ucciso mio padre, se l'avrei già fatto. Sarebbe già tutto risolto. Sarebbero finiti ancora prima di partire. Ciao Silvano, di spada di fuoco quando lo senti. Ah, tu sei quello che si scontrava con spada di fuoco. Ho parlato con quel minchione, aveva detto che andava via. Non è che per caso è qua ancora, vero? Ma tu hai votato al referendum? Certamente. Hai votato. Dunque, che ne pensi del signor Toscani? Che è Oliviero Toscani? Sì, signor Oliviero Toscani. È un coglionazzo come Parenzo. Grazie, benissimo. Ci possono dare la mano e andare per mano. Infatti siamo molto amici, infatti. Hai capito? Sono due coglionacci. E quando di Parenzo, quando parla di Salvini, della della Catalonia e di altra gente di lavarsi e sciacquarsi la bocca prima. Ma lui parla a favore della Lega di Salvini, della Catalonia. Lui guardi che io sono per lo Stato unitario, Lui non è a favore, no, lui è a favore dell'intervento dell'esercito adesso della Spagna. Certo, sì, capito, sì, lui è a favore, cioè, ma tu tutte pensa le cazzate semplicemente perché adesso, ma è una cosa indegna, va. Fermi tutti. No, la cosa più frequente è quando se ne scende per strada. Oggi sarò qui, a Montecitorio! Se tu ci avete coraggio, scendete a parlare con me! Diritti e doveri, 1.000 euro! Vergogna! E io parlo con la generazione di vostri imputi! Fitusi! E io parlo con la generazione di vostri imputi! Ho strappato l'Inps. La Zanzara. Come mi fanno incazzare quelli che quando telefonano e hanno il viva voce fanno finta di non averlo, oppure dicono è un altro argomento, ritorno sull'argomento di prima, oppure dicono buonasera. Porco Giuda, ma avete capito che state parlando con la Zanzara o no? Dritti, diretti, non ci sono preamboli, dite quel cazzo che dovete dire e poi andate a fare in culo, serenamente, pacificamente, ma andate a fare in culo. Luvolu Muluni. Ciao Cruciani, ti volevo dire che un mio amico si è fatto 6 ore di intervento a cuore aperto al Sant'Orsola, Alessandro, lo saluto, e per riprendersi dallo shock, dalle fatiche dell'operazione, mi dice che ascolta tutti i giorni a te e a quel finocchiaccio che ti sta di fianco. Ciao. Miserabili. La Zanzara. Dovete morire tutti all'inferno, bastardi, stronzi, merdosi. Ciao a tutti, ciao. Senti, Parenzo coglione, ma chi ti ha detto buon saluto da New York? Ma che cazzo me ne fotte a me che tu sei a New York? Ma vai a fare il culo, nano di merda che fai cagare. Ma vaffanculo te, chi non te lo dice, imbecille! Cazzo me ne frega, ma se sei a New York! Fottiti se sei a New York! Anzi, strangolati da solo, coglione! Ma come mai, Parenzo, frocio di merda, stranamente sei a New York e stranamente hai agganciato un ex porno attore gay, cioè frocio come te? È proprio vero che sei un frocio e che hai le chiappe chiacchierate perché te l'hanno sbattuto in culo, coglione, sei proprio un pezzo di merda, ebreo, coglione e sionista, un pezzo di coglione proprio, la merda della merda, una fetecchia, puh! Le ultime carinerie di Mauro nei confronti di Parenzo, le ultime carinerie. Se n'è andato, è dipartito, cioè ha lasciato questo mondo. Dove è andato? Erano le ultime in che senso? No, le ultime beh, questo... in senso cronologico, diciamo. In senso no, l'hai detto come dire, no ci ha lasciato. Io non capisco dipartito. Perché. Non capisco che accanimento ha nei confronti del mondo omosessuale il signor Mauro. No, signor a parte Mauro, che vorrei dire al signor cosiddetto signor Mauro da Mantova che l'intervista al professor omosessuale, ex pornoattore, esatto. Uno sta a Roma e non c'entra nulla con New York, e due l'hai voluto fare tu, Cruciani, ed era a Milano in studio con te, con l'altro signore, l'altro genio, Ruggero dei Timidi. Quindi non c'è un grande legame con New York tra il professore. Come ha agganciato? Ma chi ho agganciato? Nessuno ha agganciato. Sta a Milano il professore, io sto qui. Dai. Allora, ragazzi, nei giorni scorsi è apparso un video online di un signore che è presunto leader di un presunto movimento che si chiama Rivolta Nazionale, caro Parenzo. Un video l'hai visto sicuramente, in cui c'è un tizio con gli occhiali neri, che fa dei proclami fascistoidi, nazistoidi, con una bandiera nazista alle sue spalle. Un video molto esplicito, non so come sia finito online, era sul portale di Repubblica, per esempio. Questo signore si chiama Crescenzi, Simone Crescenzi, e questo tizio ha presentato proprio una bandiera nazista. Mi risulta dalle ultime notizie che sia stato denunziato, bene, per ovviamente quello che potete immaginare, cioè violazione delle leggi e sull'istigazione alla violenza, eccetera. Sarai eccetera. D'accordo anche tu, immagino, no? In questo caso sarai d'accordo. Però, anche tu, però amico mio, credo nella giornata di ieri. Immagino sarai d'accordo tu, no? Sbilanciati, lì sarai d'accordo sì, anche tu. Assolutamente immagino, sì, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cosa deve fare uno di più? Non ho capito altrimenti. Per esempio fare una piccola telefonatina, vediamo. Pronto? Sì, buongiorno, sto parlando con Simone Crescenzi? Sì, salve, chi è? Salve, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, salve. Cruciani? Io ho visto un video dove lei si presenta con una svastica dietro e dice che vuole fare comunque la marcia del 28 ottobre. Sì, ma chi le ha dato il mio numero? Scusi un attimo, allora. Noi non facciamo i mica san delatori. Non siamo, non faccio il pescatore, faccio il giornalista, mi procuro i numeri di telefono. Ah, non è che... si procura i numeri, mi dica chi Ma mica faccio, solo la dico, sì, mica non è che siamo tenuti a dare le nostre fonti, ma non c'è niente di grave, mica lei è... Sì, cioè... allora, sì, va bene. Ma non è, sono domande e risposte, non è che c'è problema. Sì, certo. Volevo capire, vabbè, lei... io non c'ho niente da nascondere. No, infatti, lei l'ha detto pubblicamente quello che pensa. Appunto, lei dice che vuole fare lo stesso la marcia del 28 ottobre? Il 28 ottobre? Sì. Va bene? Sono stati richiamati i ragazzi a presentarsi presso il cimitero del Verano alle ore 11, va bene? Ma i ragazzi Cappella, chi, Cappella Martiri della Rivoluzione Fascista. Martiri della Rivoluzione Fascista, sono stati chiamati chi? Aspetta, sono stati chiamati chi? Ah, ecco, guarda, ho sentito anche il commento sotto. Allora, se partiamo così. No, no, io le sto facendo solo domande. No, ho sentito. Vabbè, ho capito. Sì, sono certo, parenti. No, sì, io mi faccio prendere. No, voi. Ma non c'è nessuna presa per il culo. Voi mi sa che avete preso, tra l'altro, il personaggio purtroppo errato che potevate prendere. In che senso? Perché scusa, io non mi presto a fare. Io le sto facendo delle domande. Io lo sto facendo delle domande. Sto parlando con una persona. Persona che ha studiato. Quindi. Io le sto facendo solo delle domande. Le sto facendo. Allora, sono... allora al suo va bene, collega... non farà nessun rumore, non farà nessun rumore. No, non farà nessun rumore, se lo tiene per lui, se lo tiene per lui fatto... e faccia la persona professionale. Allora interessante. Allora, signor Crescenzi, lei dice che sono stati... Davide, ogni volta mi fai sbaccare le interviste. È possibile? Perché devi fare interessante? Questo è un nazista con la bandiera nazista. Ma perché lo devi fare incazzare? Ma fallo parlare. Fallo parlare. È suscettibile il ragazzo, come dicono dei Blues Brothers. Sì, sì, odio i nazisti dell'Illinois. Interessante. Sono da solo. Ok? Sono da solo. Sì, va bene. Allora, mi dica. Allora, io voglio capire. Non le sto dicendo niente. No, perché sennò sembra che chissà che stiamo facendo. Sono domande e risposte. Se uno vuole, non risponde. E se, non è che se uno fa è un'offesa. Non mi pare un'offesa. O no? Mi dica, Cruciani, mi dica. Allora, io voglio capire una cosa. Questa marcia su Roma, come la state organizzando? Avete convocato delle persone al cimitero del Verano per commemorare i martiri della rivoluzione fascista. Sì, non e sarà una marcia su Roma. Non sarà una della marcia su Roma. Cioè, della marcia su Roma. E della marcia su coloro che hanno partecipato alla marcia su Roma il 22. Mi pare di capire che lei si è presentato in questo video con una bandiera nazista dietro, dicendo che questa è la sua il vostro simbolo di questo suo movimento che si chiama Rivolta Nazionale, o sbaglio? No, non rinneghiamo nulla. Cioè lei è nazista? Noi non rinneghiamo nulla, di sicuro non lo vado a sbandierare alla vostra radio. Ma lei lo ha già sbandierato? Ma dietro un video privato, tra l'altro, che è stato pubblicato, quindi... Ma la bandiera nazista tutto, che vuol dire? Si che può lei... vedere tutto in quel video. No, ma io l'ho visto, ma la bandiera nazista significa che lei è nazista? È nazista per quale motivo? Sì, no, dico... Per la bandiera. C'è pubblicato un video. Hitler ha fatto delle cose buone? Hitler ha fatto, non lo rinneghiamo. Cioè Hitler ha fatto delle cose positive, tra cui tra queste cose qui, che cosa ha fatto di buono? Che ne so, il genocidio degli ebrei è stata una cosa buona? Il genocidio degli ebrei? Sì. Ma questo sta dicendo lei. Cioè, che cosa sto dicendo io? L'informazione di parte, e c'è anche la controinformazione. Cioè lei pensa che non sia esistito? Sì. Il genocidio degli ebrei, non ci sono stati 6 milioni di morti, sia tutta una truffa? Queste sono domande. Anche questa è tendenziosa. Guardi. È esistito il genocidio degli ebrei, sì o no? Non è che bisogna avere grandi cose, non mi pare una domanda così allora, complicata. Allora io le rispondo che è esistito Hitler, come sono esistiti sempre i sionisti. Ma ha ammazzato 6 milioni di ebrei, sì o no? Hitler, nella sua fisicità, non penso come possa la sua essere uscito. No, ma che c'entra ebrei. Hitler personalmente? Il regime nazista. In questa maniera. Il regime nazista. E io le ho risposto. Non penso che. C'è una falsità. Il genocidio. Un'informazione di parte e una controinformazione. Sì, ho capito. La controinformazione dà più fastidio. Cioè, non ho capito. Secondo lei, sostanzialmente, il genocidio non c'è stato. Lei ci crede a questa cosa o no? Sinceramente, non lo so. Non sono informato su queste cose. Non è informato, non lo sa. Cioè, non lo so e non. Non le interessa. La Anna Frank la conosce? Anche io non la conosco, nemmeno so chi sia. Non sa chi è Anna Frank? No. Sei nazista? Io non rinnego il mio ideale, assolutamente. Parenzo, secondo te questo signore va arrestato? Non parlo con questo. E allora, il mio video non si parla. Non parlo con questo signore qui. Non posso parlare con questo signore qui. Non ci sono le condizioni per parlare con questo signore. Perché non ci sono le condizioni? Non ci sono le condizioni. Un signore che fa un video con una bandiera nazista, non ci sono le condizioni. Ci sono le condizioni per cui le forze dell'ordine lo identifichino e traggano le dovute conseguenze. Cioè va messo in galera secondo te? Ma la polizia saprà dopo quel video lì chi è, immagino. Sì, io credo di sì, cioè c'è da aver paura di gente così. Parli con il mio avvocato a questo punto, la ringrazio. C'è da avere paura. Di una persona così c'è da avere paura. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Del tuo ego tu lo sai che me ne importa. Pensavo di essere morto un'altra volta. Un'altra volta, un'altra volta. L'ultima chiave del mazzo apre la porta. E ora che tutti mi stringono le mani, mi stringo le palle. Non so se duro fino a domani. Se succede poi lancio salami a voi pezzi di cani. Il mio mito nella vita è Cruciani. Il mio mito nella vita è Cruciani. Il mio mito nella vita è Cruciani. Cruciani, Cruciani. Ma leggi la mano zingara. Non omettere, sono in fissa fra. Nel mio futuro ci puoi scommettere. Ci sto per mettere cosa? Un po' d'ego. Mi piace avere un po' d'ego. Ma mi fai male. Un po' d'ego. Non ci crederai, caro David, ma questo tizio io non lo conosco, è un rap bellissimo, come cazzo bellissimo. Si dice, che si chiama Ernia e ha fatto un singolo che si chiama Ego. Ernia Ego, in cui dice il mio, non so se probabilmente mi piglia per il culo, il mio mito è Cruciani, credo di sì, credo che mi pigli per il culo, ma chi se ne frega. Io ho qui una sorpresa per te, amico mio, un grande ospite graditissimo. Non me ne frega niente, ti metto le cuffie, te lo passo, che no, ti vuole devo salutare. Andare avanti con la trasmissione, no, però, devo andare avanti, non mi interrompere il flusso. Chi è? Ma come chi è? Ma il padrone di casa, sì, il padrone di casa, sì, il padrone di casa. Giuseppe. Sì, Mario, cantami una canzoncina, ti prego. Almeno un saluto, una canzone, ti prego. Adesso sei più libero di cantare, fai il cazzo che ti pare adesso, dai, su. Sei stato praticamente sostanzialmente licenziato, per cui fai quello che ti pare. Mi prendi alla sprovvista. Dai, fammi con una canzone. La tua preferita. La canzone alla radio. La tua preferita. Scegliela tu. La tua preferita, dai. Frank Sinatra, vai facciamo, con Frank. Facciamo l'attacco, no? Ma no, facciamo l'attacco allora, visto che siamo Bridge Over Troubled Water, no? Cioè? Perché siamo, come la canzone di Sam American Funk, non mi dica che non la conosci. Vai, sì, certo, vai. Bridge Over Troubled Water, ponte in turbolenza, acqua in turbolenza. Vai. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. Basta. Stupendo! Mario Platero! Mario Platero from New York, una nuova professione si avvicina, che è quella dell'intrattenitore, cosa che già peraltro faceva. Fammi pubblicità. Sì, ti assolutamente. Saluto e Michele ti ripasso il capo. Da Bari, vai Michele. Buonasera al martello e buonasera all'incudine. Come va? Dimmi. Tu sei il martello. Sì, non, Parenzo, non parlare con Platero, resta concentrato. Michele, gigante, allora tu un gigante Platero. Allora, dimmi Michele. Stavo dicendo, tu sei il martello e Davide è l'incudine. Buonasera. Lei è un cretino. E lei è un cretino invece in tutto questo. Comunque andiamo avanti. E come dice, come la penso io, fin quanto il martello gli batte su è sempre l'incudine che dura di più. Va bene, Michele, che cosa vuoi dire? Nulla. Spiegami, perché nulla. Adesso dimmi che cosa vuoi dire. No, però mi sembra di ricordare, se non se la memoria non mi inganna. Tu sei quello. Esatto, sei quello che assume solo migranti, è così? Sì, ti devo dire una cosa, si è fatto male Medu, un ragazzo si è tranciato un dito, ma io non sapevo che fosse un ottimo cuoco. Me l'ha detto dopo, ma Michele, secondo me non è vero. Secondo me non è vera questa cosa qua. Cioè, secondo me non è vero, è proprio è totalmente falso il fatto che tu assumi solo immigrati. Allora ascoltami. Quanti immigrati hai assunto? Io non so, 22. 22 solo immigrati. Solo immigrati. Allora, ma perché non vuoi assumere italiani? Spiegami, ripetimelo, perché non vuoi assumere italiani? Adesso te lo spiego. Dunque, si è fatto male, ma tu è andato via. Beh, adesso ti posso dare anche l'indirizzo di dove è stato assunto. L'ho fatto assumere presso un ristorante ed è un'ottima persona. Vabbè, allora io avevo bisogno della sostituzione. Mi sono fatto un giro per i supermercati e ho visto il più simpatico, il più giovane. L'ho chiamato e gli ho detto se parlava italiano. Ma i supermercati che faceva? Che faceva questo ai supermercati? Scusami, è la questua. Ah, la questa, faceva il mendicante praticamente. Il mendicante. Tu sei andato lì e invece di andare ai, che ne so, ai centri di per i disoccupati, eccetera, invece di prendere un italiano che ha bisogno, tu vai a prendere un magari un irregolare che chiede la lemosina davanti ai supermercati. Va bene, allora, per carità, Michele, fai pure. Ascolta, allora. Io gli ho detto, ma non mi sono accorto che forse c'erano tre persone che hanno sentito, si sono presentati in quattro all'azienda. Di questi tre degli italiani, allora? Babbo, figlio e nipote, e più il ragazzo nero. Allora mi hanno chiesto il lavoro e si sono meravigliati perché nell'azienda c'erano tutti i ragazzi neri e mi hanno chiesto, te lo dico in dialetto, umè, dopo te lo spiego in italiano, umè, ma dove tutto lo ignoro, stanno a fare, cioè voleva dire, qui tutti i neri lavorano. Allora gli ho risposto, dico no, io quando assumo, è un caso, quando assumo qualcuno non chiedo mai a un essere umano di che razza è, l'essenziale è che sia di colore. Ma perché di colore? Perché li vuoi tutti di colore? Non ho capito. Perché sono bravi, capisci che sono ma bravi. Ma perché non assumi qualche italiano, qualche pugliese? Non ho capito, perché non assumi... E perché non vieni tu e vieni a vedere chi è che devi assumere? No, ma secondo me perché ti costano meno, questa è la realtà. Ti costano meno? Secondo me ti costano meno. A questi gli do la quindicesima, te l'ho detto anche l'altra volta. Capisci? Sì, scusami Michele, io non ho capito, non mi ricordo, qual è la tua attività? Che tipo di attività hai? Un capannone di carico e scarico di lamiere. Allora, dove hai 22 persone solamente immigrati? C'è questo signore qui, dà lavoro solo agli immigrati. Bellissimo. Solo agli immigrati. Io ti farei parlare con il signor Donato da Varese. No, dovresti parlare. Gli va dato una medaglia. Gli va ti farei parlare con Donato. Ti farei parlare con Donato. Perché sarà furibondo nei tuoi confronti. Furibondo. Chi se ne frega del parere di Donato? Chi se ne frega del parere di Donato? Chi ma se ne frega del parere di Donato? Cruciani, ma perché devo parlare con Donato? Perché? Ha bisogno di un TSO, che cazzo mi fai parlare? No, Michele, no, questo non è giusto quello che stai dicendo. Donato che ha bisogno del TSO, questo non è giusto. Guarda che, Donato, dove sei? Chiama, ti prego. Donato, se sei all'ascolto, chiama e fagli un culo così a questo qua, che è uno che scientificamente preferisce gli immigrati e gli italiani. Ma mi vuoi spiegare il perché? Spiegami il perché. Perché quelli che ho assunto precedentemente per poco non mi mandavano alla robina, rubavano. Anche sì, il italiani. Rotolo della carta igienica, lavativi, non tutti. Sì. E allora poi ho deciso che questi ragazzi vanno bene, sono assipiosi, sono educati, sorridono, solari, lavorano, ma perché io devo assumere? Poi da Roma in giù e soprattutto, chi è che disse, un siciliano disse che a me mi devono mangiare i cani? Che se ti ricordi? Sì, può essere, sì. Ma io voglio capire una cosa, Michele, ma qual è il motivo? Non può essere così, cioè non può essere che tu rifiuti l'italiano per principio perché pensi che l'immigrato sia più virtuoso. E Parenzo è d'accordo, e Parenzo è d'accordo, questo no, è il punto. No, ma Parenzo è bravissimo, mi sembra anche lucido, perché essendo un imprenditore non è che va contro i suoi interessi, cioè lui fa i suoi interessi e in più fa del bene. Donato, dove sei? Donato, dove sei? Vieni. Donato, dove sei? Donato è uno scansafatiche. Donato è uno scansafatiche. È il classico impiegato scansafatiche che magari si ruba anche la carta igienica e si ruba le cialde del caffè e se le porta a casa. Vabbè, è evidente. Cruciani, non posso stare a spiegare io che cosa mi hanno combinato gli italiani nell'azienda. Lascia perdere, lasciamo perdere. Senti, poi volevo dirti una cosa. Dimmi. Di Feltri, quello che chiama Negri. Sì, Di Feltri, che io me lo ricordo da quando fondò il Dipendente. Sì, il lavoravo anch'io all'Indipendente, che cazzo vuoi? No, il Dipendente, non l'Indipendente. Ah, il Dipendente, hai fatto la battutina, hai fatto. Sì, vabbè, perché si serviva da Berlusconi, capi? Adesso, col nome che si è fatto, può vendere anche il vino avariato e andrà sempre bene, farà sempre soldi. Way Feltri! Sì. Fatti comprare da chi non ti conosce, Feltri. Ma che cazzo vuol dire fatti comprare da chi non ti conosce? Scusa, traduci in italiano questa tua follia, scusa, traduci in italiano. È una follia. Ci facesse comprare da chi non lo conosce, un detto. Dimmi, che cosa vuol dire? Lui è lo conosco, è stato un asservito di Berlusconi, ma adesso viene a fare il guerriero meschino, vabbè. Quello che gli dovevo dire. Aspetta, fermati lì perché non riesco ancora a trovare Donato, perché non è possibile che questa cosa no, devi stare, è inutile che fai lo spiritoso. Marco da Verona, intanto aspetta. Ma non faccio lo spiritoso, ma tu insomma, mi hai preso proprio, ma io devo parlare con Donato. Ma perché è un minus abens, non ho capito, che è un rincoglionito. Ma che è? È un disturbato. Benissimo. Michele da Bari, due punti da dare alle agenzie di stampa. Punti, certo, Donato da Varese è un disturbato. Bravo, senza ombra di dubbio. Ma Marco, non è una notizia, perché la realtà è fattuale, come dice Feltri. Marco da Verona, vai Marco. Chiudi sta baracca, dai. Marco. Oh, Marco. Stefano da Milano, dai. Chiudi sta baracca. Stefano, dimmi, dai, buonasera. Forza. Oh, dai, forza ragazzi, su, dai Stefano, forza! Senta Parenzo, ma lei che è una persona con una cultura non indifferente, ma perché non prova a uscire dal suo bel quartiere in centro e andare a vivere in qualche periferia lontana dal centro, così la mattina prende il treno e poi magari la mattina non può aprire le finestre perché è pieno di fumi, delle immondizie che bruciano i campi rom? Come fa a essere così ipocrita? Cioè, è quello che non mi spiego. Va bene, d'accordo, adesso andrò a vivere in periferia, va bene. Rispondi però, cioè, ma cosa rispondi. Vuol dire? Ma che ragionamento è? Come quelli che gli dicono portali a casa tua, ma è Parenzo, uguale. Ma secondo lei io sono a favore delle periferie, sono per la riqualificazione urbana, perché si renda ragazzi, queste parole non le posso sentire. A quest'ora non le posso sentire, ti prego. Parenzo, no, ti prego, non ce la faccio. Ma ti pare che uno può dire ma vai a vivere in periferia? Ma che cosa vuol dire? Come no, dici, devi provare cosa significa. È un argomento talmente idiota come di chi non conosce il problema di chi vive in periferia, è talmente idiota come argomento che non merita neanche una risposta. Ma che cosa vuol dire? Ma è evidente che alcune periferie fanno schifo e sono posti degradati, è ovvio, purtroppo. Ma posso essere felice io? Ma chi gliel'ha detto che non conosco? Ma chi gliel'ha detto che non lo conosco? Ma chi gliel'ha detto? Evidentemente, ma chi gliel'ha detto a lei? Chi gliel'ha detto? Io quando vivevo a Milano, vivevo alla periferia di Viale Fine di Viale Monza. Lei non sa neanche dov'è Milano, Viale Monza. Ma io prendevo sempre la metropolitana, linea rossa, fermata a Pasteur e andavo al centro. È una fermata da piazza della rete. Degradato. Sì. Mauro, provincia di Treviso. Conosco, vai. Mauro. Se ne frega. Sì, Mauro, provincia di Treviso. Vai, dai, forza. Andiamo veloci. Okay. Allora, Anna Frank, secondo me non è stata una cosa brutta, è stato, come si dice in Veneto, peggio il tacon del buso, cioè è stato peggio quello che ha fatto lo Tito per cercare di rimediare quella cosa. Sì, bravo, che non l'abbia bravissimo, questo è vero. Questo io l'ho visto, questo stato ad Auschwitz, lo dico per Parenzo, mi sono profondamente inorridito e commosso. Vabbè, questo è normale. Allora, che cosa hai da dirci d'originale? Beh, non no, non è normale, purtroppo. Cosa hai da dirci d'originale? Che mi sono già rotto i coglioni. Dimmi. L'adesivo mi è piaciuto. L'adesivo mi è piaciuto. Ma l'adesivo è quasi è un'opera d'arte alla Warhol. L'adesivo, assolutamente. Beh. Ovviamente, non era questo l'intento di quelli che l'hanno messo. Ecco, appunto, bello. No, ma assolutamente. Detto questo, potrei farmi, io guardi, giuro, ho intenzione di fare un poster. Di fare quello che mi riguarda, un poster, però. Ma sì, ma certo, ovviamente. Ho intenzione di farmi un poster tipo Andy Warhol con la volto di Anna Frank con le diverse magliette delle squadre di calcio. È bellissimo, guarda, ma ovviamente non è in senso, non è in senso, no, ma chi vuole commercializzare? Assolutamente non lo voglio commercializzare. È lo faccio, una cosa di cattivo gusto. Ma perché di cattivo gusto? Ma perché di cattivo gusto? Perché sarebbe come prendere l'immagine simbolo del bambino del ghetto di Varsavia. Ma cosa vuol dire mica lo dico a me, ma mica lo fa e renderlo un brand. Scusami, ma a parte che lo è, come ti hanno spiegato, perché comunque vai là, paghi, eccetera, e comunque viene commercializzato lo stesso. Lo paghi per mantenere il museo. Ho capito, ma io non voglio commercializzare nulla. Ho detto che mi piace. Uno si compra i gadget di Anna Frank. Mi piace, siccome è diventata un'opera d'arte, ormai è diventata anche un'opera d'arte. Una cosa di attualità, quella roba lì è un'opera d'arte. Involontaria, non è un'opera d'arte. Involontariamente è un'opera d'arte. Marco da Verona. Vai, Marco. Buonasera. Dimmi Marco, dimmi. Senta, io ascoltavo la vostra radio, però secondo me gestite gli argomenti in modo sbagliato. Sì, Marco, innanzitutto mi devi far sentire bene, se no non sento una mazza, dai. Okay, mettiti bene, dimmi. Un direttore radiofonico non può permettersi no, di No, Marco, dire, non sento, devi fermarti, ti devi fermare, se no non sento, ti devi fermare, devi stare fermo, se no non sentiamo una mazza, se non si sente la radio non funziona, dai, forza, riproviamo, dai. Oh, Marco, ma vai a fare in culo, vai. Chi c'è qua? Michele da Bari. No, c'è una Michele, dunque. Quanti migranti ti servono, Michele? L'ho trovato. Senti, Crucia, prima che me ne scordo, a che ora quello che ha fatto il video con la bandiera nazista, a che ora il 28 ottobre devono marcire verso Roma? Devono marcire verso Roma. Scusa, bravo, Michele, quanti immigrati ti servono ancora? Nella tua azienda, no, quanti te ne servono? Uno solamente, e me l'ho trovato, uno mi serviva, perché si è tranciato un dito. Si è tranciato un dito dove? Alla taglierina, lì alla taglierina. Fanno gli sport. Allora, settimana prossima Michele versus Donato, Coccoluto mi manda un'immagine, mitico Coccoluto con la maglia della Lazio con Hitler, maglia della Lazio con la figurina Panini di Hitler, ma non è quella non è un'opera warholiana. L'opera vera, simile a Warhol, è Anna Franco con le magliette della squadra di calcio, è bellissima, è stupenda, involontariamente una cosa straordinaria, ciao. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterceli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Parenzo, cambiamola insieme! Fatti paladino di questa crociata, Parenzo!